Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presents. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to Lunedì Sera edizione of Billboard Music Charts, the best of music from charts all over the world. Abbiamo Gino Palombo on controls e iniziamo con un bel oldie. Allora, i Pink Floyd hanno appena pubblicato il loro best of, si intitola Echoes, e c'è un sacco di soldi da fare prima di Natale, ragazzi, vero o no? Già sento il suono della cassa. We'll be right back. to cry. Yeah, absolutely right. They're giving none away. Sicuramente non stanno dando i soldi in omaggio, però tant'è vero che i Pink Floyd stanno dando un po' di soldi ai foresti per rifare, riverdificare il paese, se si può dire. Comunque, Billboard Music Charts, their greatest hits is called Echoes e si trova al numero 2 in the American Charts. Incredibile, appena dopo Britney Spears, che è al numero 1. Grande Pink Floyd. Andando avanti con musica del 2001, e troviamo il numero 66 on the Hot 100, Diddy. Let me tell you something, sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. Dai, c'è Nelly Furtado che si trova al numero 6 on the Billboard Hot 100, e vi posso annunciare che già ha fatto uscire il suo nuovo singolo, e noi domani on Billboard Music Charts vi la facciamo sentire, si intitola On the Radio. Comunque al number 6 in America con Turn Off the Lights, Nelly Furtado, mentre at number 9 sono i Nickelback, numero 9, How You Reminds Me, Nickelback. Never made a rock americano, yeah, How You Remind Me. Oh yeah, lots of fun, How You Remind Me, Nickelback, e si trova al numero 9 on the Billboard Hot 100. This is the Billboard Hot 100, ogni sera dal lunedì a venerdì dalle 21 alle 23. Vi do i nostri coordinati, molto importanti questo, perché se volete richiedere un brano dovete fare queste seguenti istruzioni, e noi le prendiamo come prenotazione, o poi in serata la facciamo sentire, o il giorno dopo pure. Gigino ci ha telefonato venerdì, è sul 081 549 9191. Ecco, potevo anche fare il numero di cellulare 335 537 9191, e ha scelto un gran bel pezzo from Massive Attack. Questo viene dal loro album Blue Lines e proprio porti brividi. Complimenti a te, Gigino. We'll be right back. London. Billboard Music. Of 100 dance floors all over Napoli City and dintorno. You can't hold me down, us three on Billboard Music Charts. E con questa piacevole musica stiamo portando bei momenti. E anche on Billboard Music Charts on Radio Club 91 portiamo dei bei ricordi. Allora, siamo nel prime dell'estate di quest'anno, in aprile sono stato a Firenze a vederli in concerto quando questo era un gran bel hit. Ma loro sono usciti adesso con un nuovo singolo di nome Jackie Kane, che speriamo di proporvi nei prossimi giorni. Però per il momento, here's Hooverphonic, Mad About You. Michael Jackson ha venduto più di 48 milioni di album nella sua carriera, però con Invincible ha passato solo una settimana al numero uno, il grande. Eccoci qua, è il momento del gioco. Voi sapete che dovete fare: dovete telefonare a Radio Club 91. Il numero è 081 549 9191. Mettetevi a chiamare adesso e noi prendiamo in diretta il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che ci telefona per giocare con noi. Ok, lo posso dire anche in inglese il numero se state facendo i compiti a casa: 081 549 9191. No problem. Allora vedo che Gino sta attivando al telefono e vediamo chi c'è in linea. Ci siamo, pronto? Chi sei? Pronto. Pronto, buonasera, come ti chiami? Sono Marco. Marco, buonasera, grazie di averci telefonato questa sera. Allora, da dove ci telefoni? Da Napoli. Da Napoli, positivo questo fatto, perché i Napoli ieri hanno perso in trasferto, perciò dovresti vincere stasera. Una bella capolino secondo me, ce la fai? Chissà. Ok, allora il gioco funziona così: io ho 5 buste davanti a me con la lettera A ad E e tu devi semplicemente scegliere uno. Lì dentro ci potrebbe essere una domanda difficile, una domanda semplice o addirittura ti facciamo cantare una canzone e chissà se questo uscirà. Non è uscito dal lunedì scorso, quindi vediamo. Allora, sei pronto? Sì. Dalla A alla E. B. La B, ok, vediamo. Busta B e... Ecco Marco, devi cantare per noi! Oh, bello questo fatto! Sei un fan degli U2? Non tanto, Però almeno le musiche le conosci un po', no? Le conosco. Allora, devi semplicemente cantarci due righe di qualunque brano degli U2 e puoi vincere questo bello capolino di Club 91. Sei pronto? Devo cantare, insomma. Sì, un po' degli U2, quel grande gruppo irlandese. Non mi ricordo adesso. Dai, ti devo aiutare io! Come on, il nuovo che si intitola Walk On. Walk On. Fa Walk On. Dai, non sono io che le devo cantare, Marco. Un'altra volta? Walk On. Non male, li le daiamo, Gino? Eh sì, Gino sta dicendo di sì. Allora Marco, resti in linea e tu avrai un cappellino di Radio Club 91. Posso, ecco, Gino stava mettendo l'intro e potevamo cantare in diretta con Bono Vox. Bello questo. Vuoi fare gli saluti? Sì, sì. Vai. Al gruppo di Caserta, gli Angels of the Night, al DJ Marcello Vendemia e al manager Gianni Vendemia. Positivissimo, allora noi andiamo tutti quanti a ballare insieme a Marco, che Marco rimane in linea e daiamo il tuo bel premio, spieghiamo come farti averlo. E nel frattempo andiamo a ballare tutti quanti insieme on the Billboard Music Charts. Questo è un nuovo pezzo da un gruppo americano, si intitola Desert Dance, e il pezzo si intitola Letting Your Mind Go. You Can't Leave Behind è il nome dell'album di cui viene questo brano Walk On, che Marco prima non sapeva cantare, però l'abbiamo dato il cappellino lo stesso, complimenti. Allora ragazzi, siamo quasi arrivati al momento di Now and Then, un vecchio pezzo e un nuovo pezzo insieme. Arriva appena dopo Macy Gray insieme a The Black Eyed Peas e questo si intitola Request Line. Poi sentiresti il collegamento perché abbiamo messo questo. A dopo. On the radio, tell the DJ spin it on the mix show, make a brother feel like I'm down at the disco, and we're gonna keep it going like this though, cause the DJ grabbed a record by the fistful, by the crateful, and we grateful when you hit us up on records that are tasteful. direction of the records he played. To the direction of the record we swayed. And all night through the session we stayed. Cause you think you got the feeling. Good God, I be feeling. Check the ceiling when I'm feeling. And I be feeling alright. Don't stop, keep it going now. Bless me on my stereo, play my favorite song on my stereo. Like Macy Gray, Roots, and D'Angelo. Most definitely Nubians and De La Soul. I like them cuts with the soul and original. Never afraid to be creative on your radio. Spit my jam when I'm cruising down the barrio. Turn my audio up, create a party, yo. Hey DJ, would you play my song? And get my rock, get my roll, get my hip-hop on and dancing. All day, all night, give me some inside. Make me feel out of sight. Got me feeling, got me feeling, got me feeling. Got me wanna get down all night. Of Macy Gray insieme a Black Eyed Peas, e voi l'avete sentito dicendo Call Up the Request Line. Last night a DJ Saved My Life, il bel campione che ha messo lì. E noi ragazzi per Now and Then abbiamo deciso di trattarci proprio di Last Night a DJ Saved My Life. È uscito negli anni 80 la versione originale di In Deep, e poi nel 2001 Mariah Carey ha fatto uscire una versione che ha messo sul suo album Glitter. E vediamo come questo questa nuova versione, l'americano Mariah Carey, però prima l'originale degli anni 80, here's In Deep, Last Night a DJ Saved My Life. Where you at? Come talk to me one time. Come on. bounce around, come on, yeah, just bounce around, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, pass that thing you're steaming over there, give me that bottle of that Henny over here, just shake and bounce around, come on, yeah, just bounce around, come on, what you want now, what you want now? Come on, Wilma, where you at? Just talk to me. Come on. It's not a problem that I can't fix. Yeah. It's like I do it in the mix. And if you need to do it, just move it. Yeah. And you don't let it throw your brain. Come on, come on. Wave those troubles down the drain. Come on. MC, tell them where we going. Come on. I'm making a bounce in the truck. Where we going? Come on. Just pour a little of that Chris on the floor for all of those who couldn't enjoy this moment. So special, so precious. We gon' put the smack down on all of y'all. You know y'all. We do things. Shaking your asses out there. Bust around, MC. You're running through the music and news. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heart strength that plays soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the songs to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how. I'm trying to place to the calling of your heartstrings that play soft and low in all the night. And all the soft one light seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you. Ci abbiamo Gino Palombo, il nostro tecnico, che sta suonando il controbasso, e ci sono io a voce, meno male che sono spenti i microfoni. Comunque, Van Morrison from 1970, e torniamo a 25 anni fa, il 19 novembre del 1976. Oh yeah! E nel 1976, dopo 6 anni, finalmente Moondance è andato gold, una disco d'oro per Van Morrison. E lui è pure nelle notizie adesso, perché ha vinto una grande causa contro un giornale irlandese che ha detto che lui ha avuto un rapporto con la sorella di Jerry Lee Lewis. Non è vero! At number one America! Gino, ma che è? Stai suonando tutti gli strumenti! Prima il controbasso con Van Morrison, ed insieme a Mick Jagger ti vedo suonare non solo la chitarra, ma anche la batteria. Chi ti pensi di essere? Lenny Kravitz, magari? Che ha suonato tutti gli strumenti sul suo nuovo album, ma anche ha suonato su questo grande pezzo di Mick Jagger, God Gave Me Everything. Billboard Music Charts, al numero 2 in Italia. Siamo in Italia, number 2. Chiediamo scusa, perdona Tiziano Ferro. Se non sai che è suonando qualche strumento, vedo che stai ballando a tutti questi pezzi. Stasera ti vedo carico, e gli ascoltatori di Radio Club 91 ti sentono pure carichi con questa bella bella musica. Al numero 2 in Italia, perdona, from Tiziano Ferro. Ok, vi ho promesso che verso quest'ora ogni sera guardiamo un album del momento. Allora, abbiamo scelto di iniziare con un gruppo di Athens, Georgia, in America. Loro si intitola i REM, o REM in americano e inglese, e l'album che vogliamo sentire ogni sera un pezzo alle 22:10 più o meno è intitolato Reveal. Il pezzo che ascoltiamo si chiama I've Got High. Ascoltate la bella falsetto del vocalist Michael Stipe. Have you seen? Thank you. so high, but love Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. That day, Natalia, Natalia Imbruglio ci racconta di quel giorno. Forse sta parlando del fatto che suo nuovo singolo è entrato al numero 10 in Australia, nel sua terra nazionale. Ma l'Italia è anche sua terra nazionale, visto che lei ha i parenti a Liberi. E perciò voglio salutare a tutti a Liberi. Ciao Tonno e tutti a Tonno Beach. Che l'estate non finisce mai, purtroppo non è vero. Però noi ci ritroveremo fissi l'anno prossimo. Jay-Z è il numero 25 in the charts. Here he is con tutte le sue ragazze. Girls, girls, girls. London. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. California, hottest thing in West LA. that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain, loving material things, kinda lonely, till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring, she invites me, spend a day on the jet skis. At first it didn't mean a thing, then she told me, I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's Miss California, hottest thing in West LA, house down by the water, sails her yacht across the bay, drives a Maranello, Hollywood's her favorite scene. Made from Heroin's place, went horseback up to the mountaintop, showing me the land she's got. Well, it's alright, something else is on your mind, looking past all that shines, now the tears are running too. All those things are nice, but it's not why I'm here. I will wipe away your tears simply by just loving you. She's Miss California, hottest thing in West LA, house down by California, un gran bel pezzo from Dante Thomas, che bella proprio riascoltare questo grande musica dell'estate. Ok, un po' di notizie sui Garbage. Poverino, il batterista si sente male, ha preso il morbo dell'epitate A e perciò non può suonare più per il momento, però loro dovrebbero aprire tutte le date degli U2 in America. Allora, che fare? Praticamente Larry Mullen Jr., il batterista degli U2, ha detto: tranquillo ragazzi, suonerò io per voi in batterista. Quindi vedremo il nuovo batterista del Garbage, il grande Larry Mullen del U2. Saremo a vedere. Comunque hanno pubblicato un nuovo pezzo proprio in questi giorni, Garbage, e noi adesso vi lo facciamo sentire on Billboard Music Charts. This one is called Cherry Lips, Labbra di Ciliegie, bella Garbage. She gave you everything she had, but she was your- Tieni dal album Beautiful Garbage, che io spero sarà un grande, grande successo per loro. Eccoci ragazzi, siamo arrivati al momento del gioco. Voi sapete che dovete fare, è molto semplice. Telefonateci adesso al Radio Club 91 081 549 no, anzi 543 91 91. Ecco, mi scivolo con tutti questi numeri davanti a me, però siete voi a dare i numeri, spero proprio di no. 081 549 91 91. Gino giustamente dice che l'ho letto male un attimo fa. Rileggiamo: 549 91 91. Prendiamo il primo chiamatore, la prima chiamata che arriva per giocare con noi. Una domanda abbastanza semplice o forse abbastanza difficile pure, e vedremo se siete in grado di rispondere e vincere un bel cappellino di Radio Club 91 on Billboard Music Charts. Allora vediamo chi c'è in linea. Pronto, chi sei? Ciao, buonasera, sono Fabio. Fabio, buonasera, grazie di averci telefonato stasera. Da dove telefoni? Dalla provincia di Napoli. con la provincia di Napoli. Ok, bene. E come è il tempo lì? Immagino che è un po' come qua a Napoli, un po' umido, vero? Sì, infatti. Ecco, ecco, l'estate purtroppo è finito. Comunque, sei pronto a giocare con noi? Ok. Ok, semplice. Io ho 5 buste, anzi ne ho 4 adesso perché prima ho aperto la B. Quindi tu puoi scegliere A, C, D o E. E lì dentro c'è una domanda o forse vi facciamo cantare. Però non credo, visto che è già uscito questo. Allora, una lettera, Fabio. A. A, ok, ecco. Apro qua. Ok, allora, ti ne intendi un po' di musica, classic rock americano? Scusa, puoi ripetere? Te ne intendi? Capisci un po' di musica americano, classic rock? Sì. Allora, questa dovrebbe essere una domanda semplicissima per te. Semplicemente, chi era il cantante dei Doors? Jim Morrison. Oh, bravissimo Fabio! Alla grande, hai vinto un bel capolino di Radio Club 91. Allora rimani in linea e ti diamo come puoi venire a ritirarlo. E noi vi facciamo, vi dedichiamo il pezzo remixato di Depeche Mode. Spero che stai ballando a casa, Fabio, because this is called I Feel Loved. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Talks like June, yeah, yeah, yeah. Train, Drops of Jupiter, e loro si trovano al numero 19 on the Hot 100 of the Billboard Music Charts in America. Allora, il nuovo singolo loro si intitola Something More e domani sera vi la facciamo sentire. Voglio salutare a Marco e Fabio, i nostri due vincitori del gioco stasera. Ricordo che domani sera giocheremo sempre alle 21.40 e alle 22.40 e quindi dovete essere pronto per chiamarci alle 081 549 91 91. Allora, siamo arrivati al nostro momento della proposta che stiamo ascoltando noi a questo momento on our stereos a casa nostra. E visto che domani ho un appuntamento con Taxman, l'uomo delle tasse, non è una cosa piacevole, però vi voglio far sentire questo meraviglioso version di Taxman, una canzone dei Beatles, ma questo è Junior Parker. Let me tell you how it will be. There's one for you and 19 for me. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Made it rough. I dig this. Should 5% appear too small? Just be thankful. I don't take it all. Tax man is something else, isn't it? Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Now dig this. If you drive a truck, I'll tax the street. If you try to fix it, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. And if you take a walk, and this is awful, I'll tax your feet. Cause I'm the tax man. He's awful. Now don't ask me what it's for. If you don't want to pay, pay some more. I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. Now dig this. Now my advice for those who die. This is awful. Beware the pennies on your eyes. Cause I'm the tax man. Yes, I'm the tax man. And you're working for me. No one but me. Tax man is rough. He can come and get you anytime he wanna. Would you believe he can come and get your old lady? Billboard Music Chart. Thank you. Unfalling, unfalling, ma non è vero, non sta cadendo sulla classifica del Billboard Music Charts Alicia Keys. Infatti è in salito, sta guadagnando dai belle posizioni e forse questo è perché ha suonato dal vivo presso the Billboard Music Awards la settimana scorsa e perciò molto, molto pubblicità per lei. Proprio un bel pezzo questo. Ah, non ha mai amato qualcuno come si è innamorato di te, ai nostri ascoltatori di Club 91. Ragazzi, what's going on? There we go, it's What's Going On, l'originale di grande Marvin Gaye, ma questo è the old star lineup with What's Going On, un grande successo vorrei dire, però sembra proprio di no, sta scivolando in tutte le classifiche del mondo, nonostante il fatto che è uscito solo un paio di settimane fa. Un grande peccato perché la canzone originale è molto bello, forse la nuova versione mica tanto, però è per un buona causa, no? Ragazzi, a domani alle 21, ciao! Music and news.